Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Michael Ashdale vuole eventualmente la palla, anche se segna aiuta per il pareggio. A sua volta con un gioco a tre punti la Roma. Gol! E se la prende direttamente dalle mani di Malone. 16 seconds left. Bulls down one. Ultimi 15 secondi, meno uno Chicago, il palleggio per Michael Jordan, che ha spazio. Michael against Russell, 12 seconds. Come si fa a commentare qualcosa che si commenta da solo? Le parole, il boato della gente, il cronometro che scandisce i secondi, il rumore di una retina che si gonfia, il suono della sirena che sancisce l'inevitabile, la vittoria, il trionfo. C'è tutto quello che serve. È un compito impegnativo quello che si è preso oggi Destini Incrociati. Celebrare un mito, di qualsiasi provenienza esso sia, è molto difficile, se si pensa alle implicazioni, alle sacrosante controversie in cui si può incappare, ai rischi, primo tra tutti, quello di prendersi troppo sul serio. In ogni caso, la celebrazione è un rito, e in quanto tale va rispettato fino in fondo. E oggi proveremo proprio a fare questo, ad andare fino in fondo a una storia che per metà si svolge per aria. La storia di oggi parte da un presupposto fondamentale. Per arrivare lassù in cima ci vuole tanto, tanto, tanto. Tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Anzi, di più. Per cominciare c'è bisogno di una serie di elementi indispensabili. Un pizzico di fortuna, un po' di audacia, un tempismo fuori del comune, doti, volontà e atteggiamento. Poi un piccolo aiutino che viene da una persona che forse tutte queste doti non le ha. Per quanto un campione possa essere considerato un semidio, un mito, senza un pizzico di umiltà e disponibilità, difficilmente otterrà risultati importanti, soprattutto in uno sport di squadra. Oggi sono i media a stilare la classifica degli eroi moderni, imprimendo nella storia ogni singolo atto e contribuendo a costruire una visione del mondo. Ma restano i risultati a imprimere nella storia le gesta di ogni campione dello sport. È il risultato quello che conta. Chissà cosa devono aver pensato Delores e James Raymond Jordan il 17 febbraio 1963, quando nasce il nostro protagonista di oggi, il cui nome è stato scandito con la giusta dose di incredulità e deferenza all'inizio della nostra puntata. Michael Jeffrey Jordan. Michael Jeffrey Jordan. Come tutti i genitori, è probabile che abbiano gioito, pianto e sospirato, immaginando per il loro figlio il futuro più bello che gli dèi potessero offrire. Anche quando, poco dopo, decidono di spostarsi da Brooklyn a Wilmington, nella Carolina del Nord. Ad attenderli c'è una storia molto americana che contribuirà ad esaltare la figura di Michael negli anni a venire. Il giovane Jordan cresce tra insicurezze e strane paure adolescenziali, tra cui l'acqua e le donne, che lo spingono addirittura a frequentare corsi di economia domestica. Nel frattempo il fisico cambia, mostrando i primi segni di un'esplosività fuori dal comune. Potenza, altezza, agilità. Il mito è in fase embrionale. Michael è in attesa dei primi segnali, che arrivano puntuali. Per ogni buona storia di successo c'è una bocciatura. Alla Lini High School il giovane Jordan viene escluso dalla squadra di basket. È Federico Buffa, uno dei più grandi cantastorie della palla a spicchi, a raccontare quello che è successo. Vuol diventare un giocatore. Prova per la locale Lini High School, dove lui va a scuola, il suo liceo. E l'allenatore gli dice: senti Michael, guarda, io ne ho visti tanti di ragazzi. Se dovessi proprio darti un consiglio, questo non è lo sport per te. Michael la prende male, malissimo. È un ragazzo ossuto di 15 anni con delle grandi orecchie a sventola. L'anno dopo ritorna. C'è un nuovo allenatore e gli dice: senti, per favore, posso provare con te? Nel frattempo però si era tenuto il nome del ragazzo che gli era stato preferito quel giorno a Lini High School. Sì, ce la farà a entrare a Lini High School. Sì, diventerà il più grande giocatore di tutti i tempi. Ma non ha dimenticato una cosa, il nome di quel suo compagno. Se entrate in un albergo negli Stati Uniti, non siete tenuti a dire il vostro nome, vi danno una fiche e la riempite. Lui, per 15 anni di NBA, ha sempre scritto il nome di quel giocatore. Così, per non dimenticarselo. Come avete notato, il nome di questo povero atleta che ha fatto lo sgarbo involontario di soffiare il posto a Michael non viene fatto. Non per questo viene dimenticato. È nella mente di Michael in ogni momento della sua carriera sportiva. È la sua spinta interiore per imparare a volare sui canestri degli Stati Uniti. Vedi, il problema è che il carrello non sarà abbassato. Ci hai pensato? Come lo faccio atterrare col carrello retratto? Ralph sta pronto, è il momento. Bill, mi preoccupa che il carrello non sia giù. Ma quale carrello? Non sarà giù il carrello. Esatto, perciò come faccio? Il fatto è che col carrello su e io che sto sotto ho buone speranze di finire come una pizza. Avanti, Ralph, va lassù, aggancia il Columbia e portalo a te. Bill, solo un minuto. Stammi a sentire, Ralph. Ascoltami. Non fare imprudenza e rammenta che ti amo tanto. Ah, sì, ma io... E atterra sui campi della fattoria che abbiamo visto a est della città. Dammi l'ok sul walkie-talkie e io e Pam corriamo lì. Un momento, voi due non mi state a sentire. Lo spezzone che avete sentito è tratto da uno dei telefilm di successo degli anni Ottanta, Ralph Super Maxi Eroe. È la storia di un uomo qualunque che si ritrova a indossare i panni del supereroe e a volare proprio come nei sogni di ogni persona. Nonostante questi poteri, Ralph non perderà mai neanche un briciolo della sua goffaggine ed è questo aspetto che lo renderà così amato. Il titolo originale della serie americana, infatti, è The Greatest American Hero, a conferma di quello che è il vero mito a stelle e strisce, un eroe umano, nonostante tutto, capace di fare qualsiasi cosa. Peccato che il nostro Ralph sia in possesso di grandi boccoli d'oro, occhi azzurri e una carnagione tendente al chiaro, segnali poco chiari della sua potenza. La stessa cosa vale per Michael. Mentre impara a volare nei campi da gioco universitari, finalmente titolare nella squadra di basket del college, nessuno immagina che presto quel ragazzo magro con le molle sotto le scarpe diventerà una leggenda. Michael è un nero afroamericano. E la North Carolina ha tradizioni ben poco tolleranti al riguardo. Il mito cresce in territorio ostile, tanto per aggiungere inchiostro al poema. È il momento del primo segnale. Georgetown still has one timeout left. North Carolina has four. 32 seconds to go. Doherty, the black. The time, 18. Shot, Jordan! Michael Jordan, 14 seconds. Il segnale arriva, ed è chiaro, anche senza la traduzione. Jordan trascina la squadra del North Carolina fino alle finali NCAA, con le sue schiacciate e le sue giocate. L'atleta è stato forgiato dai tanti sport praticati nell'infanzia, su tutti il football e il baseball. In più c'è la dote. In finale Michael, per la prima volta, mostra davanti al popolo americano uno dei suoi poteri, quello di controllare il tempo. A 32 secondi dalla fine, con la squadra sotto di un punto, chiunque potrebbe dire che è finita, che non ce la puoi fare a riprendere possesso palla e a volare verso il canestro avversario. A chiunque tremerebbero le gambe, le mani che si sottraggono dalla presa, senti già il tepore caldo della doccia e pensi alle parole di rammarico per una sconfitta di misura. Lui invece no. In quei 32 secondi il tempo si ferma e i duri come lui cominciano a giocare. Si prendono la palla a spicchi e cominciano a puntare il canestro. No, quei secondi non finiscono mai quando sei in sospensione e lasci volare la sfera. Quanti secondi? 100? No, sono ancora 32 quando quel tiro diventerà il tiro. The shot. Perché nelle mani di Jordan tutta l'indeterminatezza si trasforma in definizione perfetta. E ora siamo pronti per vedere la terza scelta che spetta ai Chicago Bulls. I Chicago Bulls scelgono Michael Jordan dall'Università della North Carolina. Il 1984 è una data da ricordare. Mike sposa Chicago e viceversa. A celebrare il matrimonio è David Stern, inventore della moderna NBA. Il testimone è il popolo americano. C'è una gran confusione e un gran vociare durante il draft, ovvero il sistema di scelta dei giocatori che si celebra ogni anno negli sport professionistici statunitensi. Il 1984, infatti, verrà ricordato come uno dei più ricchi draft di tutti i tempi nella storia del basket americano. Insieme a Mike ci sono Hakeem Olajuwon, Charles Barkley e John Stockton, tanto per citare altri fenomeni. Tra i nomi scelti c'è persino Carl Lewis, il leggendario velocista di colore. Jordan si porta dietro tutto il suo prezioso corredo universitario, ma non è la prima scelta. Olajuwon gli è davanti, e questa sembra una svista da poco. Quello che verrà ritenuto un vero e proprio abbaglio, qualcuno lo definirà affronto, è la scelta di mettergli davanti anche Sam Bowie. Ma ci sarà una carriera intera a fungere da lenitivo per il nostro protagonista, mentre al povero Sam toccherà combattere tutta la vita contro la stampa e la critica degli addetti ai lavori, come se avesse deciso lui di sfidare il campione assoluto. E il meccanismo perverso dei numeri e delle statistiche sportive, le catene ai polsi che tengono imprigionato ogni giocatore NBA. Jordan così atterra a Chicago con le sue molle sotto i piedi e il numero 23, il suo numero. La squadra di basket della città è una delle peggiori di tutta la franchigia e il pubblico latita, tanto che qualcuno sta pensando di spostare tutto il circo da un'altra parte. Insomma, tira un'aria di sbaraccamento e forse è l'atmosfera giusta per fare l'impresa. Jordan si scalda, il primo anno esegue il compitino, quello che per altri sarebbe un mezzo prodigio. Rimette Chicago in pista, finisce all'All-Star Game, la partita tra i migliori giocatori di tutte le squadre, e a fine stagione viene premiato come matricola dell'anno. Niente male per il novellino. L'anno successivo Jordan si infortuna alla caviglia e si deve fermare per metà stagione. Ma questo non serve certo a condizionarne l'ascesa. Si tratta di un banalissimo stop, come puoi fermare l'inevitabile. Una volta guarito, Michael prende la rincorsa ed effettua un balzo da cui non atterrerà più. Grazie a lui Chicago arriva ai playoff, termine che sul lago Michigan sembrava caduto in disuso, e sua altezza decide di fare proseliti in una delle roccaforti meglio protette, il santuario di Boston. Negli ottavi finale dei playoffs NBA c'è stato stabilito un nuovo record per punti in una partita. Michael Jordan, qui inquadrato numero 23 dei Chicago Bulls, in una partita di playoffs ha fatto 63 punti, proprio in questa partita qui contro i Boston Celtics a Boston Garden. Marcato da tutti, McHale, Bird, Dennis Johnson, Ainge, lui è riuscito in una partita di due tempi supplementari fare miracoli. Questo è Michael Jordan, forse il più grande talento oggi nel basket. È l'inconfondibile voce di Dan Peterson a tramandare l'episodio, una prestazione pazzesca. A fine partita, intervistato dalla stampa, Larry Bird, altro campione indimenticato, conferma quello che tutti coloro che hanno assistito hanno pensato, e lo dice. Oggi in campo c'era Dio, e quel Dio era travestito da Michael Jordan. Dopo quello di controllare il tempo, Mike mette in campo un altro potere, quello di sconvolgere i numeri. La stagione è un susseguirsi di disarmanti constatazioni e non c'è statistica che neghi ciò che la gente vede stropicciandosi gli occhi. Siamo davanti a un fenomeno. Rebound taken down by Steve Johnson up to Michael Jordan. Oh, God! An unbelievable move! He put it in and it's good! Evoluzioni, salti, canestri impossibili. Le qualità e le risorse di Jordan sono infinite. MJ vola su tutti i parquet americani conquistando il pubblico. L'NBA ha trovato il suo numero da idolatrare. Nell'ascesa e nell'affermazione di Jordan e nelle urla di delirio che lo accompagnano, comincia a sentirsi una piccolissima nota stonata. All'inizio è un fastidioso ronzio da scacciare. Poi nel tempo assume i contorni definiti di un rischio che col passare dei canestri prende sempre più forma. Persino lui se ne accorge nei rarissimi momenti di silenzio dai boati della folla e dagli impegni fuori dal campo. Jordan è capace di ogni prodezza. Ma le vittorie non arrivano con continuità e i grandi obiettivi gli sfuggono. Poi, sulle tavole del palcoscenico, piomba un aiutino. I Seattle Supersonics scelgono Scottie Pippen da Central Arkansas. Scott Pippen, dall'Università dell'Arkansas, 21 anni. Probabilmente è la prima volta che ne sentite parlare, ma credetemi, i Talent Scout e Bill Russell parlavano proprio di questo ragazzo pochi mesi fa. Lo stesso ragazzo che è finito oggi a Seattle. Siamo nel 1987. La voce che avete sentito all'inizio è quella dell'immancabile commissioner NBA David Stern, che annuncia la scelta dei Seattle Supersonics per l'anno successivo. Si tratta del secondo protagonista di oggi e il suo nome è Scottie Maurice Pippen. Scottie Maurice Pippen. Scottie arriva in punta di piedi nel basket professionistico, circondato da quel brusio che avete sentito subito dopo la sua nomina. Non farà neppure in tempo ad arrivare a Seattle, che la squadra lo scambierà subito con Holden Polinis, un altro Sam Bowie, un altro rincalzo finito suo malgrado dentro questo strano disegno del destino. Pippen dunque andrà a Chicago, nel regno di Jordan. E per ora la notizia termina qui, perché la prima pagina è sempre per lui, per MJ. Citando a caso, stagione 87-88. Durante una partita disputata contro gli Utah Jazz a Salt Lake City, Jordan schiaccia in testa John Stockton, alto solo 1,85 m. Un tifoso, nel parterre, si alza in piedi e urla sdegnato a Jordan di provare a schiacciare in testa un avversario della sua stessa altezza. Nell'azione successiva, Jordan schiaccia in testa al mastodontico Melvin Turpin, 211 centimetri, 13 in più di Jordan, e si rivolge al tifoso con un'occhiata divertita per sapere se era grosso abbastanza. Non c'è dubbio, Mike è unico. Quella che avete sentito è la musica di uno spot degli anni 80, il cui slogan è Be Like Mike, essere come Mike. Jordan, da fenomeno, diventa prima testimonial, poi prodotto stesso, in un'escalation tipicamente americana. Jordan non solo vende, ma seduce, sposta gli equilibri e finisce per essere sommerso dal monumento meno divino che sia mai stato eretto dall'uomo, il denaro. Mentre il suo regno si arricchisce di ogni bene terreno che si possa immaginare, quel ronzio però ancora lì, la paura, torna a bussare a casa Jordan sotto forma di spettro. Vincere. Michael ha tutto dal punto di vista fisico e materiale. Seduto sul suo trono che galleggia a mezz'aria, assiste alla seconda vittoria consecutiva dell'anello NBA dei Los Angeles Lakers, trascinati da Magic Johnson. È un'impresa. È raro che una squadra vinca due titoli consecutivi in un campionato così competitivo. Magic è un vincente, non c'è dubbio. E Mike? Qualcuno storce il naso. Se vuoi essere un campione devi vincere, e se giochi in una squadra non basta segnare caterve di punti. Il basket non è uno sport singolo, e in questo momento scatta qualcosa. Mentre la gente lo soprannomina Air, vedendolo staccare dalla linea del tiro libero per vincere l'ennesima gara delle schiacciate, Jordan capisce che c'è solo un modo per scalare anche le classifiche: vincere. Ad aiutarlo ci sarà quello Scottie Pippen, arrivato da poco in punta di piedi, quell'aiutino senza il quale non si entra nella storia. Siamo a Chicago, Illinois. Sul finire degli anni Ottanta è nato un nuovo culto che sta spopolando e che sta facendo impazzire tutta l'America. È la Jordan Mania. Molto più in basso c'è un altro uomo, uno spilungone con la faccia sempre imbronciata. Si chiama Scottie Pippen e, al contrario di Jordan, lui è tutt'altro che un predestinato. La storia di Scottie è piena di cicatrici e piccoli e grandi tagli, di quelli che ti porti dietro e non c'è verso di farli sparire. Nasce e cresce ad Amberg, in Arkansas, dodicesimo figlio di una famiglia sterminata. La madre, dopo un infarto del marito che lo costringe a stare su una sedia a rotelle, lavora senza sosta per mantenere tutti. Scottie fa altrettanto, cercando di inseguire la sua vocazione. Il basket gli piace, lui ci vorrebbe provare. Ma c'è un piccolo particolare. Lui non piace a quelli del basket. Nobody wanted Scotty. Nessuno voleva Scotty, questo è il punto. Ma la gente non capiva. Atleticamente era messo bene, ma non era velocissimo. Era poco reattivo ed era molto magro. Questo è il parere di uno dei suoi insegnanti. Scottie è un incompreso, ma a lui questa cosa gli fa un baffo. Anche se la vita lo mette a dura prova, a uno dei suoi fratelli tocca infatti la stessa sorte del padre, la sedia a rotelle, a causa di un incidente durante un allenamento sportivo. E questa cosa segnerà molto il giovane Pippen, che non ha qualità particolari, forse è vero, ma possiede una caratteristica che hanno in pochi. Migliora senza soluzione di continuità, sensibilmente e in tutto quello che fa. Così, ottenuta la borsa di studio, entra nella University of Central Arkansas, dove, pur di stare nella squadra di pallacanestro, si mette a fare il team manager. Ci vorranno una serie di infortuni di alcuni compagni per farlo giocare. Una volta dentro, Scottie non uscirà più. E il suo costante progredire lo porterà fino alle porte dell'NBA, dove ad attenderlo c'è una stella luccicante quanto una galassia. Gli inizi non sono facili. I primi tempi Pippen vede la sua carriera ondeggiare pericolosamente agli stessi ritmi infernali del basket NBA. Giocare al fianco del più grande è ancora più difficile perché se le cose non funzionano, la colpa non è del campione, ma spesso dei suoi gregari. Ma Scotty ha un'arma segreta. È Charles Franklin, uno dei suoi insegnanti alla high school, a svelarcelo. Una delle cose buone del fatto di provenire da una piccola città dell'Arkansas è che la gente crede sempre in te e non ti abbandona mai. La costanza e la determinazione di Pippen lo porteranno a uscire presto dal pantano di un futuro incerto. Il suo miglioramento sul piano tecnico-tattico, col trascorrere del tempo, ha del prodigioso e gli consente di mettersi al servizio di Sua Maestà Jordan. Ora la classe può contare in una spalla che conosce ogni suo dettaglio. I Chicago Bulls iniziano a buttare fuori fumo dalle narici. L'obiettivo è l'anello NBA e la definitiva consacrazione. A guidare la carica c'è Michael Jordan. Di fianco, un tizio dallo sguardo perennemente alla ricerca di qualcosa. La squadra da battere, quella che ha sostituito i Lakers, è Detroit. Ma non un Detroit qualsiasi, bensì quella dei cosiddetti Bad Boys. Isaiah Thomas, Laimbeer, Rodman, Dumars. I Pistons sono tosti e hanno facce poco raccomandabili. Gente che preferiresti avere dalla tua parte e non contro. Chicago ci prova e ci prova fino in fondo. Le due squadre si scontrano nella finale di conference, quella che precede la finalissima. Piston in his face. We take a look now on a clear out. Michael Jordan appears to have Joe Dumars beat. But Isaiah Thomas totally leads B.J. Armstrong, recognizing that Michael Jordan may try to do it on his own. And they play right into the Pistons' hands. Michael è il solito macinatore di punti e in tutte le partite segna una quantità industriale di canestri. Scotty cerca di arginare le spallate che arrivano da quei brutti ceffi. Si arriva fino a gara 7 e Chicago si squaglia come un gelato al sole. I Detroit Pistons vincono il titolo e come i Lakers realizzano il back-to-back, ovvero la doppia vittoria in due anni. Può sembrare il segno della disfatta, ma semplicemente è un rinvio. Quello che Chicago ha fatto è semplicemente alzare la posta. Basterà attendere i successivi 3 anni per capirlo. Interrompere un ciclo di 2 anni di vittorie con un altro ciclo di 3 è più divertente, non credete? Dio! È così! Dio! Beh, Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo gli istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? Te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento, per farsi il suo bravo cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione, una stronzata universale. Guarda ma non toccare. Tocca ma non gustare. Gusta ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista, ecco che cos'è, e uno dovrebbe adorarlo, non mai! Proprio come fa uno straordinario Al Pacino nel film L'Avvocato del Diavolo, nello spezzone che avete appena sentito, Dio viene messo in discussione. E proprio come nel film, Dio ne uscirà vincente, in qualche modo, anche sfruttando le debolezze dei mortali. Jordan e Pippen sbolliscono la rabbia della sconfitta e l'anno successivo si presentano più decisi che mai. I soliti rivali, Detroit e Los Angeles, sono lì, pronti a dare del filo da torcere. Ma le due squadre devono fare i conti con un inevitabile calo fisico, mentre Sua Altezza è nel pieno sviluppo sia atletico che mentale. E Scotty? Beh, Scotty zitto zitto corre e suda. Dopo 4 anni di NBA è uno dei pochissimi giocatori ad avere migliorato costantemente le statistiche individuali anno dopo anno. Anche se la faccia rimane sempre con la stessa espressione, quella di chi ancora non è riuscito a togliersi dalla testa quel fastidioso ronzio. Tra poco, a Destini Incrociati, si inaugura una nuova era. Sono gli inizi degli anni 90. Sua Altezza Michael Air Jordan è pronto a governare nell'impero dell'NBA. Al suo fianco da un po' di anni c'è un ragazzo dinoccolato che parla poco, sorride ancora meno, ma non sbaglia un colpo. E Scottie Pippen, legati da un filo invisibile, così diversi e così indispensabili uno all'altro, vogliono arrivare là in alto dove la fisica e la logica si sentono orfane. Lo spettacolo ha inizio. In tre anni, nel 91 contro i Los Angeles Lakers di Magic Johnson e James Worthy, nel 92 contro i Portland Trail Blazers di Clyde Drexler e nel 93 contro i Phoenix Suns di Charles Barkley, i Chicago Bulls vincono tre titoli NBA di fila, realizzando il cosiddetto three-peat, un gioco di parole traducibile più o meno come tripetuto, che fonde il numero 3 e il termine repeat, riuscito solo ad altre due squadre nella storia dell'NBA. Jordan gioca una pallacanestro a livelli ineguagliabili, rasente il limite della perfezione, mai vista prima e mai più rivista da nessun giocatore dopo di lui. Nei playoff, e in particolare nelle finali, Michael è semplicemente inarrestabile, polverizzando un record dietro l'altro e vincendo anch'egli tre titoli consecutivi di MVP nelle finali NBA. Pippen è solido come una roccia e non stacca mai neanche per un secondo lo sguardo dal suo riferimento in campo, Michael. Ci sono momenti in cui il trasporto e l'incredulità lasciano spazio alla tenerezza. Gli allenatori, i giocatori avversari, sanno che la palla finirà lì, al numero 23, soprattutto in alcuni momenti. Ma neanche conoscere il futuro può servire a fermare l'inarrestabile. Jordan e Pippen fanno il vuoto dietro di loro. Insieme hanno creato una macchina schiacciasassi. A supportare l'epicità degli eventi c'è un allenatore un po' strano in panchina che, oltre a dettare schemi, ci butta dentro un po' di filosofia zen. Si chiama Phil Jackson e passa gran parte del tempo rimanendo imperturbabile e godendosi lo spettacolo che offrono quei due. Poi, quando è negli spogliatoi, invece di urlare o chiamare schemi, usa parole di questo tipo. È un viaggio che inizia con un singolo passo. E durante questo viaggio dovete ricordare che ogni partita è quel singolo passo che avete fatto fin dall'inizio e che vi porterà avanti. Il numero 3 ha un significato importante. Non si può non leggere in questo numero un segno del destino e il suggerimento al passo successivo. E così, terminata la tripletta, Jordan decide di giocare con la storia e lascia tutti senza fiato. Ecco a voi il numero 23, Michael Jordan! È stata una serata di celebrazioni ed emozioni. Come se Chicago si fosse voluta riversare nello United Center per rendere omaggio alla sua superstar. So che mi volete fare piangere. Non voglio piangere, ma sono molto emozionato. È l'effetto che mi fa tutto il calore che mi date. Il 6 ottobre del 1993 Jordan annuncia il suo ritiro dal basket. Il pianto con cui Michael accompagna la celebrazione di quella decisione è in realtà la prosecuzione di un dolore che si porta dentro da un po'. Qualche mese prima, infatti, il padre viene assassinato da due delinquenti. Il numero 23 è scosso, forse pensa che la sofferenza non possa essere cancellata ed è in cerca di risposte per una mente esausta dalle domande. Finirà col giocare a baseball. Un po' perché è lo sport che suo padre avrebbe voluto vedergli praticare, un po' per dimostrare che non c'è nulla che non sappia fare con una divisa da gioco addosso. La decisione di Michael getta scompiglio tra i tifosi. I fan non si danno pace e l'NBA rovista nei suoi cassonetti alla ricerca di un sostituto o quantomeno di un palliativo. Ce ne sarebbero, a dire la verità, ma se hai abituato la gente a volare, non puoi chiedergli di tornare coi piedi per terra. Chicago torna a essere una squadra normale. Scottie Pippen vaga per il campo come se le luci dell'arena fossero state spente all'improvviso. La sua è la faccia di sempre, ma sembra piegata ancora di più da una smorfia di disapprovazione. Senza MJ non è la stessa cosa, ma anche per sua altezza sono tempi bui, a dimostrazione del legame che li unisce. La carriera nel baseball non decolla, come se le molle sotto i piedi fossero sparite tutto a un tratto. Per un campione non ci sono scelte alternative, è scritto. Jordan deve tornare là in alto. Era il 6 ottobre del 1993 quando Michael Jordan lasciò di stucco il mondo sportivo annunciando il suo ritiro dal basket professionistico. Esattamente 442 giorni dopo è tornato. È una mattina di fine marzo quando viene annunciato con la giusta devozione il ritorno di Michael Jordan. Persino Bill Clinton, l'uomo più potente del mondo, durante una conferenza stampa su questioni terrene, trova il modo di esultare. L'economia ha prodotto 6 milioni e 100 mila posti di lavoro da quando sono diventato presidente. E siccome Michael Jordan è tornato a giocare per i Bulls, i nuovi posti di lavoro sono diventati 6 milioni 100 mila e uno. Il ritorno, come previsto, scuote le fondamenta del regno NBA. La maggior parte degli addetti ai lavori saluta il ritorno del supercampione con piacere. Qualcuno si ritrova a digrignare i denti, altri invece manifestano dubbi, se non fastidio. Non si può pensare che un re torni in punta di piedi. C'è una persona in particolare che tira un sospiro di sollievo vedendo entrare Mike negli spogliatoi. È il suo inseparabile compagno Scotty. I due sono di nuovo insieme. Manca solo un piccolo dettaglio. Michael ha ancora una piccola scoria di cui liberarsi. Si presenta per la nuova stagione col numero 45, quello che ha usato nella sua carriera nel baseball. Sembra un particolare da poco, ma così non è. I Bulls vengono eliminati ai playoff dagli Orlando Magic. Poi interviene il destino. Un irriverente, piccolo, insignificante professionista del basket dal nome banale, Nick Anderson, forte della fresca vittoria contro i Bulls ai playoff, intervistato, afferma che il numero 45 è un giocatore forte, ma non è certo il numero 23. È il segnale che Jordan aspettava. Immediatamente si riprende il suo vecchio numero per la nuova stagione. Ora, per il povero Anderson e tutti gli altri, sono di nuovo guai. Come avete sentito dai commenti in inglese e in giapponese, il mito conquista il mondo. Tra il 96 e il 98, Mike e il suo fido Scotty ripetono la tripletta e lo fanno in grande stile. La prima vittoria arriva dopo una stagione strabiliante. I Bulls conquistano il titolo dopo aver vinto 72 partite su 82 durante la regular season. L'anno successivo la solfa è sostanzialmente la stessa. Cambia solo la presunta rivale, che dopo Seattle diventa Utah. Al fianco della divinità volante c'è sempre Scotty Maurice Pippen, che gioca un basket di sostanza e di efficacia. I due sono nel pieno della loro maturità sportiva. MJ completa la sua ascensione con l'ultimo tassello che gli mancava, la saggezza. Nonostante un dominio incontestabile, infatti, si permette il lusso di lasciare a un comune compagno di squadra il tiro decisivo in una finale. Si arriva così al 98, che si conclude esattamente come è cominciata la nostra puntata, con la consacrazione di una leggenda. Michael Steele vuole eventualmente la palla, anche se segna aiuta per il pareggio, a sua volta con un gioco a tre punti la ruba, Jordan, e se la prende direttamente dalle mani di Malone. 16 seconds left, Bulls down one. Il balzo di Jordan finisce poco dopo l'ultima vittoria. Per il numero 23 è tempo di tornare sulla terra. Si ritira per la seconda volta, da campione. Ci metterà un po' ad abituarsi in realtà. Nel 2001, forse spinto da un disperato bisogno di sentirsi di nuovo re, Michael torna, questa volta in un'altra squadra, Washington, e senza dubbio in un altro modo. Le due stagioni diventano una specie di tour in cui MJ gira l'America a raccogliere applausi e l'America tributa al suo eroe il giusto congedo. Nel 2009 Michael Jordan entra a far parte della Hall of Fame dell'NBA, acclamato come il più grande di tutti i tempi. Ho detto ai miei amici che sarei salito qui, avrei ringraziato e me ne sarei andato. Ma non posso. Ci sono troppe persone che devo ringraziare. Nei video che raccontano la mia storia non c'ero soltanto io. Avete visto anche Scottie Pippen in tutti i campionati che ho vinto. Every championship I won. Un giorno potreste rivedermi in campo a 50 anni. Non ridete. Mai dire mai, perché i limiti come le paure spesso sono solo un'illusione. Grazie a tutti. Accanto a lui, quello Scottie Pippen che certamente aveva capito da un pezzo cosa serviva per vincere tutto insieme al più grande campione di tutti i tempi. Di solito tutti vogliono essere come Mike. È quello che dice la canzone. Tu vorresti essere come Mike o vorresti essere Mike? No, voglio essere come Scotty. È ciò che sono e ciò che voglio essere.